Capitolo 32. Come se volessero assicurarla su quanto Ingeborg già sapeva, cioè che era la linea di partenza dei 10 giorni più gloriosi della sua vita, il mondo, quando Ingeborg guardò fuori dalla finestra la mattina successiva, era radioso, splendente per i raggi del sole e frizzante di freschezza. In lontananza, ai confini con la Russia, le grandi masse nuvolose giunte a Köken'see dall'ovest, che per 2 giorni l'avevano avviluppata in una cortina di vapore acqueo, si stavano stemperando in una lunga striscia violetta. Il giardino appariva lustro e ridente. La terra, reagendo all'azione dei raggi solari, sprigionava effluvi soavi che sembravano volessero andare incontro al sole per baciarlo appassionatamente. Avesse mai avuto bisogno di incoraggiamento, il calore e il profumo di quella mattina gliel'avrebbero di certo fornito. Ma ora che la notte, un momento in cui è facile che i dubbi si insinuino nell'animo dell'insicuro, era terminata unitamente ai giorni zuppi di pioggia, in cui è più facile che fatti destinati alla dimenticanza cadano nell'oblio, ella non provò più alcun scrupolo o apprensione di sorta. Semplicemente raggiunta l'inizio dei 10 giorni di maggior gloria di tutta la sua vita. Ora tutto le appariva facile. Robert, dopo una colazione consumata di buon'ora, del tutto indifferente all'imminente partenza della moglie, si era diretto ai campi per verificare in prima persona i risultati di 48 ore di precipitazioni. Carl venne a comunicarle che uno dei cavalli, zoppicante fino a poco prima, era migliorato e quindi in grado di portarla a Moeke. Clara, la domestica, era raggiante d'orgoglio per il fatto che si affidasse a lei sola la custodia della casa. E il treno sarebbe partito da Moeke a un orario così conveniente che le avrebbe permesso di far visita a Robert le tedditi. Canticchiando, preparò il più piccolo dei suoi bauli. Canticchiando, si infilò nella camicia i soldi che erano rimasti troppo a lungo nel cassettone. Una, due, tre, 10 banconote tedesche di colore azzurro del valore di 100 marchi ognuna. Domandandosi, in realtà senza troppa apprensione, se fossero stati troppi e subito dopo, ma con altrettanta leggerezza, se fossero invece stati troppo pochi. Di nuovo canticchiando, indossò accessori di uso poco familiare, quali un cappello e una veletta, mettendosi altresì alla ricerca dei guanti. Ancora canticchiando, consegnò le chiavi di casa a Clara e, sempre canticchiando, rimase per un momento sulla soglia, osservando Carly imbrigliare i cavalli. Anche tutti gli uccelli di Köken'see stavano cantando e il maiale, disteso al sole in un'estasi di piacere, cantava anch'esso a modo suo. E non era certo colpa sua, pensò Ingeborg magnanimamente, si produceva soltanto un raspante grugnito. La vita è in assoluto la cosa più celestiale, affermò a se stessa, abbottonandosi i guanti, l'espressione sobria per l'eccesso di gioia. E le cose deliziose che si trovano dietro ogni angolo, le deliziose, liete sorprese che essa riserva. Anche quando i bottoni si staccarono, non se ne ebbe male, ma perdonò anche loro, adducendo la scusante che non erano avvezzi a farsi abbottonare. Decise pertanto di lasciarne ciondolare i polsi. Qual giorno avrebbe perdonato qualsiasi manchevolezza, persino il più grave misfatto a chiunque. Clara la raggiunse all'esterno per consegnarle un pacchetto contenente dei panini e un mazzolino di fiori appena lavati dalla pioggia. Come sono gentili tutti, pensò, sorridendo in direzione di Clara e chiedendosi se un bacio di saluto l'avrebbe infastidita. Il suo cuore, un unico, traboccante grazie che abbracciava tutto il creato. E poi all'improvviso, proprio quando Carl fu finalmente pronto, la carrozza alla porta e il suo baule caricato insieme all'ombrello, ai panini e ai fiori, Ingeborg corse dentro casa e scribacchiò a Robert un messaggio che pose sul tavolo del suo laboratorio dove non avrebbe potuto fare a meno di notarlo quando nel pomeriggio fosse rientrato per riprendere il lavoro. Non posso non dirgli la verità, fu il pensiero che diede le ali all'impulso che seguì, in un giorno celestiale, di pura gioia, donato da Dio come quest'oggi. Non sono stata sincera riguardo agli stivali. Scrisse, imbrattandosi i guanti di inchiostro per volerseli togliere troppo precipitosamente, presa dalla frenesia dell'imminente partenza. Sto andando in Italia con Mr. Ingram a Venezia per via del ritratto, ma non solo, anche per vedere altri luoghi strada facendo. Credo che se ci penserai bene, alla fine non te ne avrai troppo male. Ora devo correre via o perderò il treno. Ingeborg. Dopodiché, si issò sulla carrozza e partì incredibilmente sollevata e ben salda nella sua fede che con sufficiente tempo e tranquillità Robert avrebbe compreso e avallato un progetto così evidentemente ragionevole. Si ripromise di scrivere di nuovo da Berlino, una vera lettera questa volta, per esporre con dovizia di dettagli le sue argomentazioni e quelle di Ingram. Senza dubbio era l'unica cosa assennata da farsi. Ed era certa che, in ultima analisi, un uomo intelligente come Robert non avrebbe potuto non comprendere le sue ragioni. Il treno, però, non raggiunse Berlino che alle 11 di sera, e quando Ingeborg approdò al Christliche Hospiz, trovò ad attenderla una lettera di Ingram che le raccomandava di trovarsi alla stazione Anhalter il mattino seguente alle 9. Benché avesse ogni intenzione di svegliarsi presto e di scrivere al marito, Ingeborg, essendo parecchio stanca, dormì fino a tardi e fu solo quando gli accordi dell'armonium che componevano i pezzi del repertorio luterano penetrarono nella stanza, aleggiando sopra la sua testa, che le riuscì di destarsi e di prendere atto di quanto fosse vicino al punto di perdere il treno per l'Italia. Digiuna di colazione e di preghiere, e quasi senza aver pagato il conto, si allontanò dal Christliche Hospiz con gli abiti impregnati del sentore di naftalina e di vecchi pasti consumati tempo addietro, molto, molto tempo prima del suo arrivo. Annusando l'aria con cautela e riluttanza al tempo stesso e abbassando entrambi i finestrini del taxi, concluse a giudicare dall'odore che la qualità del cavolo che costituiva la base di tutti i pasti del Christliche Hospiz non era troppo dissimile dalla qualità d'esecuzione del repertorio del suo armonium. Se poi erano solo i suoi abiti a puzzare di cavolo e non anche il taxi, non lo sapeva, ma non vi era dubbio che ciò che le teneva compagnia lì all'interno era l'odore inconfondibile di quella pregnante vivanda. «È l'odore della compassione», spiegò frettolosamente a Ingram, quando incontrandola alla stazione prese a scrutarla con sguardo severo. «Sei stata un soffio dal perdere il treno», le disse, prendendola per il gomito e sospingendola energicamente lungo la banchina fino a raggiungere una porta aperta presidiata da un uomo in divisa, chiaramente ansioso di chiuderla, e che, incurante della mancia elargita da Ingram, squadrò a sua volta Ingeborg con aria di rimprovero. «Mi dispiace tanto», disse lei ancora un poco ansimante, lasciandosi cadere di fronte a Ingram mentre il treno scivolava via dalla stazione. «Ma non sono proprio riuscita ad arrivare prima». «E perché?» inquisì lui sempre con aria severa, dato che aveva appena trascorso una mezz'ora alquanto turbolenta. «Dovevi solo svegliarti in tempo». «Sì, ma non ci sono riuscita, dato che dormivo». «Oh, Ingeborg, che sciocchezza! Avresti potuto chiedere di essere svegliata». «Sì, però non l'ho fatto». «E perché non ti abbottoni i guanti? Su, vieni qui che ti aiuto». «No, non si possono abbottonare. Non ci sono più bottoni». «Cosa? Niente bottoni». «Si sono staccati». «E perché non li ha ricuciti?» «Ma che importano i guanti? Avevo una tale fretta di mettermi in viaggio!» esclamò lanciandogli uno sguardo di estasiata felicità. «Per venire da me!» «Per venire da me!» disse, i suoi occhi fissi in quelli di lei. «Sì, e in Italia!» «L'Italia! Beh, ci è mancato poco che non ci incontrassimo! Che cosa avresti fatto in tal caso?» «Sarei comunque andata in Italia!» «Come se nulla fosse?» «Beh, l'Italia è pur sempre l'Italia, ma ora guardate questo cielo. Non è forse meraviglioso? Non è perfettamente splendido? È mai possibile che il cielo d'Italia sia ancora più azzurro di così?» Egli si produsse in un movimento impaziente. «Il solito ragazzo cantore», disse. Poi, afferrandole la punta delle dita per osservarlo, aggiunse: «Perché hai i guanti imbrattati d'inchiostro?» «Perché ho scritto una nota a Robert». «Cosa? L'hai lasciato così? Senza dirgli nulla a voce?» «Certo che no. Gli ho detto tutto riguardo a Berlino e al fare acquisti, e lui non se ne è dispiaciuto nemmeno un po'. Visto? Proprio come ti avevo detto. Ma allora perché gli hai scritto?» «Per dirgli la verità, che vengo con voi in Italia». «Cosa? L'hai fatto?» «Sì, alla fine non me la sentivo di partire in quel modo così menzognero. E gli hai scritto che saresti partita con me?» «Sì», e gli ho detto. «E sei proprio certa che rientro ha trovato la lettera?» «Sì, non poteva non vederla. L'ho posata in bella vista sul tavolo del laboratorio proprio al centro». Ingram si chinò in avanti, il viso percorso da una vampata di rossore, gli occhi traboccanti di riso trionfo, per prendere la mano destra di Ingeborg, fasciata dal guanto sporco d'inchiostro tra le sue. «Oh, adorabili macchie d'inchiostro!» esclamò osservandole, sollevando poi lo sguardo verso di lei. «Tu, mia piccola ribelle, che hai lasciato terra bruciata dietro di te!» Mentre lei stava per aprire la bocca per formulare quello che evidentemente era un quesito, Ingram la distolse frettolosamente dalle sue intenzioni con una sequela di versi. «Tu sei tutta la felicità», le disse con l'energia che scaturisce dalla convinzione, un'energia davvero stupefacente considerata l'ora mattutina. «Tutta la musica, il colore e il profumo che esistono sulla terra». «Allora, non vi siete accorto del cavolo?» gli chiese immediatamente sollevata. Egli le lasciò andare la mano. «Quale cavolo?» le domandò in tono brusco, dato che venire interrotto mentre componeva immagini lo infastidiva molto e ancora di più se ciò accadeva nel bel mezzo di un'intensa emozione. Ma quando Ingeborg iniziò con dovizia di dettagli a descrivergli le condizioni interne del Christliche Hospiz, egli la interruppe. «Oggi non voglio parlare di brutture», la informò, «di tutti i giorni della mia vita, non proprio oggi». Poi, sporgendosi in avanti e guardandola dritto negli occhi, disse: «Ingeborg, sai che giorno è oggi?» «Giovedì», rispose Ingeborg. Si trovavano su un treno, formato da scompartimenti affacciati lungo un corridoio, e benché ne avessero uno tutto per loro, nella zona di passaggio i viaggiatori si appiattivano alle pareti e si porgevano vicendevoli scuse. Il controllore entrò per la verifica dei biglietti. «Sul treno c'è un vagone ristorante», comunicò loro in tedesco con autorevole piglio prussiano, affinché i passeggeri che dovevano viaggiare comodi si sentissero spinti a utilizzare tutti i comfort disponibili a bordo. Altrimenti gli avrebbe di certo trovato il modo per scoprirne la ragione. «Sì», disse Ingram. «Non dovete cambiare», intimò loro il controllore, animato da una determinazione tutta prussiana che i suoi passeggeri non dovessero smarrirsi, nemmeno se l'avessero desiderato. «No», disse Ingram. «Non prima di Basilea», aggiunse in tono minaccioso, quasi come se volesse attaccar briga. «No», ripeté Ingram. «A Basilea dovrete cambiare», rimarcò il controllore, in apparenza pronto a balzar loro addosso al primo accenno di opposizione. «Sì», rispose Ingram. «Arriverete a Basilea questa sera alle 11:40», disse in un tono che in realtà stava a significare: «Insomma, volete stare bene attenti e ascoltare?» «Sì», disse per l'ennesima volta Ingram. «A Basilea, oh, andate all'inferno!» sbottò Ingram all'improvviso, con voce tagliente utilizzando la propria madrelingua. Immediatamente il controllore unì i talloni in un saluto militare. La notevole mancanza di autocontrollo di quel giovane gentiluomo lo convinse all'istante che si trattava di un ufficiale di alto grado paludato in abiti civili a scopo di viaggio. Esibendo grande deferenza, si ritirò in silenzio. «Visto che c'è un vagone ristorante, posso fare colazione?» chiese Ingeborg. «Non hai ancora mangiato nulla?» «Oh, povera cara! Dai, andiamo!» Lei lo seguì lungo il corridoio mentre lui la precedeva per sgomberarle il passo dagli astanti, voltandosi di tanto in tanto per afferrarle la mano e aiutarla a superare i punti di congiunzione tra un vagone e l'altro. La carrozza ristorante si trovava in testa al treno e raggiungerla richiese notevole perseveranza e la faticosa apertura di parecchie porte. Ogni volta che Ingram si girava verso di lei per stringerle le mani con una salda presa al fine di contrastare il movimento oscillatorio che il sobbalzare del treno imprimeva ai loro corpi, sbatacchiandoli contro le pareti delle carrozze, entrambi si guardavano e scoppiavano a ridere. «Che gran divertimento!» pensava Ingeborg. «E che delizia che qualcuno si prendesse cura di lei come se fosse una persona importante, un bene prezioso!» Benché avesse già fatto colazione a Berlino, Ingram si sedette al tavolo e prese a osservarla con quell'interesse sollecito a cui non sfugge nemmeno il più impercettibile movimento. L'atteggiamento e l'espressione soddisfatta che gli si leggeva in viso ricordava quella di un gatto avvezzo a nutrirsi di tristi, miseri topuncoli, che, incredulo di veder davvero apparire sul suo cammino la preda tanto a lungo agognata, la divorì anzitempo con gli occhi, con la fantasia e con un gusto tutto felino. Il predatore era consapevole che quel topo, finalmente imprigionato e totalmente piegato al suo volere, gli avrebbe portato enorme beneficio nutrendolo a dovere. Quindi Ingram le imburrò il pane, le versò il tè e compì tutti quei gesti che un felino avrebbe compiuto in quella situazione se fosse stato un uomo, allettato dall'idea che il topo avrebbe presto messo su peso, sicuro che tutto ciò che esso avesse mangiato e bevuto sarebbe rimasto, per così dire, in famiglia. Quella splendida mattina di giugno, l'ultima del mese, proiettava bagliori dorati sull'ininterrotta sequenza dei finestrini del treno. I campi erano inondati di luce. Nonostante l'ora mattutina, già incominciava a far caldo. I contadini, curvi sui lavori di fienagione, si drizzavano per veder passare il convoglio asciugandosi il viso madido di sudore. Le mucche più avvedute se ne stavano all'ombra degli alberi, in gruppi. Il ventilatore all'interno della carrozza roteava e ronzava all'impazzata e il cameriere in giacca bianca che le servì delle fragole, ognuna delle quali era stata sottoposta ad attento vaglio e ritenuta idonea da parte delle autorità competenti, la cui sede era ubicata a Berlino, in edificio adibito a tale scopo. Era l'incarnazione dell'ottemperanza al regolamento delle ferrovie dello Stato prussiano, ove si decretava, brevemente ma implacabilmente, che i camerieri dovevano improntare il loro comportamento alla massima imperturbabilità. Quando le presentò il conto, Ingeborg estrasse dalla camicetta una delle azzurre banconote tedesche che aveva riposto, la quale trascinò con sé anche il resto del denaro arrotolato. A che servono tutti quei soldi? Chiese Ingram. Per pagare i conti? A proposito, dovete dirmi quanto vi devo per il mio biglietto fino a Locarno, avete detto? È lì che dobbiamo scendere? Senti, non puoi di certo andare in giro con tutti quei soldi sparsi. Dagli a me, ci penserò io. Ella gli porse le banconote, 9 biglietti provenienti dalla sua camicetta e parte di una decima proveniente dalla borsetta, che portava con sé ma che, talmente poco avvezza a usare borsette com'era, si ricordava malapena di avere. Spero che siano abbastanza, gli disse, e non dimenticate che devo anche tornare indietro. Egli si produsse in una sonora risata e ripose con cura le banconote. Abbastanza, è una fortuna, sufficiente a farti fare il giro del mondo. Oh, non trovate sia troppo stupendo, troppo meraviglioso per essere vero? Chiese Ingeborg con espressione raggiante. Sì, e l'aspetto più glorioso di tutti è che adesso non puoi più andare da nessuna parte, disse, riponendo il portafogli nel taschino interno della giacca, apponendovi qualche colpetto di compiaciuto possesso e lasciando in sua direzione un'occhiata canzonatoria. Senza di me. Ma io non ne ho nessuna intenzione. Preferisco di gran lunga stare con voi e trovo sia meraviglioso da parte vostra desiderare la mia compagnia. Sapete, non riesco mai a capacitarmene del tutto. Egli si sporse verso di lei sopra il tavolo. Piccolo trionfo del mio cuore, mormorò. Il cameriere tornò con il resto. Come vorrei che Robert fosse qui, disse Ingeborg scrutando il paesaggio fuori dal finestrino con immensa contentezza. Sono certa che se fosse riuscito a lasciare il suo lavoro avrebbe adorato tutto questo. Ingram spinse la propria sedia all'indietro in malo modo. Io invece non lo credo affatto, ribatté. E nel ripercorrere il lungo corridoio per raggiungere il loro scompartimento, benché l'aiutasse ancora nei punti più difficili, lo fece semplicemente spostando una mano dietro la schiena affinché lei l'afferrasse e non più voltandosi verso di lei per guardarla negli occhi e sorriderle. Man mano che le ore passavano, la giornata si riscaldava sempre più e l'aria si saturava di polvere. I temporali che avevano inondato la Prussia orientale non erano arrivati sin lì. Anzi, a giudicare dall'aspetto del paesaggio, la pioggia non si era vista da molto tempo. Nuvole di polvere entravano nello scompartimento. Chiusero i finestrini, ma anche così riusciva a penetrare dalle fessure, turbinando ovunque, togliendo loro il respiro e persino posandosi sui delicati dettagli del naso di Ingeborg. Ingram l'aveva costretta a togliersi il cappello e la veletta, per cui ora non aveva nulla che le rimparasse il viso. Con indispettita attenzione, Ingram prese a osservare la pelle di lei, che andava assumendo toni grigiastri. Vedere il candore del suo volto, che andava offuscandosi, lo irritava in modo insopportabile. Aveva voglia di sporgersi verso di lei per pulirglielo. Ingram, del resto, ma sopportava i lunghi viaggi in treno. Ingeborg, invece, nonostante il caldo intollerabile, era attiva e irrequieta come un bambino, e non faceva altro che alzarsi in piedi all'improvviso per lanciarsi nel corridoio assolato e gioire della vista che si godeva anche da quel lato. Oltrepassarono Weimar, dove Ingeborg fece sfoggio di intemperato zelo, lanciandosi in una dissertazione su Goethe, abbassando il finestrino, allungando il collo per vedere meglio e citando Kennst du das Land wo die Zitrone blüht, citando proprio a lui che aborriva le citazioni persino quando il clima era fresco. Poi oltrepassarono Eisenach, qui Ingeborg sciorinò in toni esaltanti tutto quello che sapeva su Lutero, il Wartburg, il calamaio e il diavolo, oltre che su Santa Elisabetta, naturalmente. Egli era assolutamente certo che sarebbe arrivata anche a Santa Elisabetta. Gli raccontò ogni leggenda, proprio a lui che le conosceva meglio di chiunque altro e che doveva già subire il supplizio di un'insopportabile emicrania e che per tenersi in vita Ogni pochi minuti andava in bagno per immergere la testa nell'acqua fredda e per giunta lei non si curava per nulla del fatto che nello sporgersi dal finestrino, per osservare meglio il paesaggio, la sua bella chioma volava in ogni direzione, il viso non era più solo coperto di polvere ma anche imbrattato di fuliggine. Nel momento più rovente della giornata, Ingram, in un istante di allucinazione, si chiese se non si trovasse in compagnia non di un singolo ragazzo cantore, bensì dell'intero coro in gita estiva. Coro che gli sembrava di condurre per mano verso il palazzo del ghiaccio, al fine di trascorrervi una lunga giornata e sfuggire alla canicola. In verità quella sensazione lo investì dopo il pranzo consumato presso la carrozza ristorante, un pranzo che la sua febbrile immaginazione parve essere composto da portate a base di tizzoni ardenti, serviti con zolfo e consumate sulla bocca di un vulcano pronti a eruttare. Persino il cameriere che serviva i tavoli, in barba al regolamento, si stava sciogliendo in una pozza di sudore e quando l'ispettore oltrepassandolo lo scrutò con occhi d'aquila prussiana per controllare se ogni cosa fosse in ordine e se tutti gli standard stabiliti dalla legge in fatto di camerieri impeccabili, piatti caldi e passeggeri freschi fossero rispettati, si avventò all'istante su quell'essere madido, il quale, impossibilitato a negare l'ovvietà della sua condizione, scattò sull'attente a talloni uniti e tentò di sfuggire all'elevazione di una multa, spiegando in toni ansiosi di essere consapevole della propria sudorazione, ma che si trattava di sudore freddo. Quando il treno raggiunse Francoforte, Ingeborg e Ingram stavano prendendo il tè e quando arrivò a Heidelberg consumando la cena. A Heidelberg il grande disco della luna piena si innalzava in cielo sopra il castello e il fiume Neckar si stagliava nel paesaggio come una striscia luminescente. La giornata estiva stava volgendo al termine in una quiete pressoché perfetta. Le strade ora tranquille che conducevano lontano nei boschi attraverso i frutteti erano costellate su entrambi i lati di fiori bianchi. Nel buio, solo questi ultimi rilucevano magicamente. Ciuffi di stellarie, di ornitogali e candide spighe di elleborina. Le altre corolle colorate che avevano già fatto mostra di sé durante il giorno, come gli azzurri fiori di cicoria, le bianche lisimachie e i licniti del colore delle rose, erano chiuse per il riposo notturno. Ingeborg fissava il paesaggio fuori dalla finestra con il viso di un folletto all'apice della felicità. Gli occhi che risaltavano tra le macchie di fuliggine brillavano più luminosi che mai e i capelli erano tutti divisi in ciocche, creste scarmigliate che turbinavano nell'aria corrente. Quell'orrida giornata, con le sue infinite ore di caldo soffocante, non aveva minimamente scalfito l'umore di Ingeborg. L'unico effetto che sembrava aver sortito su di lei era stato quello di sporcarla un poco. Ingram invece giaceva riverso all'indietro nel suo angolo, sentendosi uno straccio e non desiderando altro al mondo che dell'acqua fresca versata sul suo corpo accaldato mentre se ne stava sdraiato su una lastra di marmo gelido. Il sole però stava finalmente tramontando, regalando un po' di refrigerio e acquietando il turbinio dell'aria polverosa. Anche l'ultimo viaggio alla carrozza al ristorante era stato compiuto, un viaggio dove era stata Ingeborg ad aprire le porte e dove nessuno si girava più per aiutar l'altro nei punti di congiunzione tra un vagone e l'altro. Egli aveva camminato dietro di lei, osservando stizzito l'abito di foggia bizzarra che pareva uscito da vecchi numeri di riviste illustrate, dotato di maniche e gonne dal taglio decisamente superato che copriva troppo in alcuni punti e troppo poco in altri. Ritenne comunque che per lo più coprisse troppo, dato che quell'anno la moda femminile prescriveva modelli succinti. «Dovrei acquistare dei vestiti nuovi in Italia», le intimò durante la cena. «Per farne cosa?» gli chiese sorpresa. «Per farne cosa? Per indossarli, naturalmente», le rispose con acidità. Più tardi, comunque, quando fra Strasburgo e Basilea il chiarore accecante si fu finalmente chetato, la lampada accesa nel loro scompartimento venne schermata, donando all'ambiente una riposante penombra, e i finestrini furono aperti sulla grande oscurità stellata della notte per accogliere le migliaia di effluvi risvegliati dalla rugiada che si sollevavano dai campi attraversati dal treno. Egli iniziò a sentirsi meglio. Su suggerimento di lui, Ingeborg era uscita e si era lavata il viso. Adesso quindi era libero di ammirare nuovamente, con soddisfazione, quella carnagione perlacea che risplendeva nell'oscurità. Poco dopo, quando una serie di curve determinò un mutamento nell'assetto del treno e la luna, pur lasciandosi lui ancora immerso nella sua pozza di oscurità, prese a risplendere sul viso di lei, sollevato a guardare le stelle, trasognato per l'immensa felicità, ella gli apparve nuovamente come la più sublime incarnazione di spirito che avesse mai trovato in una donna. Uno spirito inconsapevole del proprio fascino, squisitamente indipendente e distaccato da ogni forma di meschinità. Rimase così, a fissarla dal suo cantuccio di ombra, per molto tempo, assimilando ogni curva e tratto del suo viso, tentando di imprimersi nella mente quello sguardo di serenità e di manifesto appagamento, quell'espressione di pace interiore, di smisurata dedizione a un particolare momento, qualità che non aveva mai visto prima se non nei bambini. Quegli attimi di osservazione del suo volto lo liberarono gradualmente dall'umore febbrile e stizzoso della giornata. Come era avvezzo fare, si dimenticò di quel malumore come se non ne fosse mai stato preda. Rinfrescato e tonificato dalla crescente freschezza della notte, presto dimenticò l'irritazione, l'insofferenza e il desiderio, che nell'arco di quella giornata era stato presente in lui in modo insopportabile, di allontanarsi da lei. Appagato dalla tranquillità di quella contemplazione, dimenticò la sua irrequietezza, assaporando il silenzio di lei, carico di espressione e di attrattiva, perse memoria delle continue citazioni. E osservando il nitore della sua pelle, scordò di averla mai vista grigia di polvere. Ora che la sua vista si beava di quella visione, che il suo corpo era ben comodo con la testa appoggiata ai cuscini e che un delizioso refolo d'aria gli scompigliava i capelli, la figura di lei richiamò alla sua mente il soffice petto di un uccello ricoperto di candido piumaggio. Ingeborg gli appariva preziosa come un diamante, ma non solo, dato che era anche buona e gentile. Quella donna era come acqua di sorgente in una giornata di caldo opprimente, come un vino bianco dal bouquet delicato. Sì, indubbiamente. Ma che cos'era lei davvero per lui? Per un bel pezzo, gli occhi concentrati sul suo viso, cercò la risposta. Infine trovatala, si sporse verso di lei per renderla partecipe. «Ingeborg», disse con tutto lo slancio di una rivelazione che giunge dal più profondo del cuore, «tu sei per me come la pace di Dio».